Buongiorno Carlo, complimenti per la trasmissione. Grazie. Sono un interista incazzatissimo. Io te la facevo un tiro, la palla che ti facevi tiro io non girava mai, andava fisso e andava sempre allo stesso posto. Io la maggior parte delle colpe le do al presidente, perché non so, magari per il lavoro che fa con i fumi del gasolio si è rovinato il cervello. Tutti convocati di Carlo Genta. Io zappavo la terra. Dal disco volante sono uscite quattro creature umanoidi e un piccolo robot. Parte da sinistra Iniesta, tocca ritratto di Pedro, Busquets, in bocca del pallone Alves, destra ha servito Messi, invece andrà stretto Messi, parte il tiro, rete! Gran gol di Messi, primo gol, soluzione alla squadra italiana. Pallone che non passa, prima chiusura di Abate, poi Ambrosini. Fermato però, insiste la Barcellona, Iniesta, limite, Messi! Gran gol di Messi, 2-0. Due minuti dopo il palo di Nyang, la raddoppia di Messi. Secondo i testimoni, che comprensibilmente sono rimasti per diversi giorni sotto shock dalla paura, le creature erano altissime, dai 3 ai 4 metri, ma con teste molto piccole. Palla in mezzo, chiudono bene i difensori della Milan. Zapata in verticale, grande anticipo di Mascherano, Iniesta di prima, gira per Xavi, l'apertura, attenzione, posizione regolare, e c'è il terzo gol, ancora. E la Barcellona che passa con il gol di Pedro Rodriguez, di via. Gol di via. C'è sempre più spesso qualcuno che afferma di aver visto i marziani. Parte in velocità Alexis Sanchez, dall'altra parte sono in due. Attenzione, Abbiati battuto, 4-0. Jordi Alba fa esplodere il Camp Nou. Ragazzi, cosa volete che mi inventi? Cioè, saluto Luca da Vicenza che ha spostato un appuntamento di lavoro per sentire cosa mi invento oggi dopo la figuraccia. Cosa volete che inventi dopo quello che ha fatto ieri Messi? Ma piuttosto, mentre Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti, in regia come ogni giorno, vi invito, 800 24 00 24 è il numero verde, 349 238 6666, poi c'è anche l'interista che invece la mette, diciamo, in poesia. Ho quattro soldi messi da parte, compro una villa al mare per vedere l'alba tutti i giorni. Roberto interista da Belluno. No, piuttosto io mi domando e vi domando, va bene il Barcellona, va bene i marziani, va bene questa introduzione bellissima, ma dov'era il Milan? No, perché mi aspettavo qualcosa di diverso. È stato molto onesto e duro Ambrosini nel dire non eravamo adeguati. È chiaro che il Milan ha una distanza siderale rispetto al Barcellona, come squadra, come profondità, eccetera. Però mi aspettavo una partita diversa, perché il Barcellona fin da subito, fin da quella mezz'ora che ha tramortito il Milan, è riuscito ad arrivare là dove voleva, là dove fa male, cioè alle spalle della linea di centrocampo del Milan, e a giocarsi l'uno contro uno, come avete visto con Messi, con i difensori rossoneri che non sono esattamente dei fulmini di guerra a livello europeo. Certo, mi aspettavo più battaglia, mi aspettavo più corsa da parte del Milan, cose che avevamo visto all'andata naturalmente e che ieri sono sparite. Questo è il grande mistero che proveremo a chiarire. È ovvio, se insomma con il senno di poi si può dire, se va dentro quel tiro di Niang, se non aveva le ruote, il tiro di Niang è andato sul palo. Sull'1-1, magari all'intervallo avremmo visto qualcosa di diverso. Il tiro di Niang invece è andato sul palo, si può dire Balotelli magari avrebbe spaccato la porta, ma siamo sempre nel campo delle ipotesi. Non sono ipotesi invece i numeri, che sono inquietanti, come un po' come questo sottofondo per il Milan. Allora, ultime quattro stagioni, ottavi di ritorno in Champions League. Manchester United Milan 4-0, Tottenham Milan 0-0, fuori perché aveva perso all'andata. Arsenal-Milan 3-0 con mille paure dopo il 4-0 di San Siro, e ieri poi Barcellona-Milan 4-0 fa 11-0 con una sola qualificazione negli ultimi 4 anni di Champions League. Questo è inquietante. Allora, dovremmo avere un ospite molto gradito, giocatore di un altro Milan, bravissimo allenatore da tempo. Ciao Walter Novellino. Ciao. Dov'era il Milan ieri sera? Perché va bene il Barcellona, ma mi è sembrato ancora più grande di quanto già grande non sia. Io non ho visto un bel Milan, non ho visto il Milan. Ma devo dire che il Milan degli ultimi tempi non si è visto, però devo dire che il Barcellona ha fatto la più bella partita degli ultimi, direi negli ultimi 4-5 mesi, perché devo dire che non al di là del possesso di palla, che loro lo fanno benissimo, poi c'è quel fenomeno che lì qualsiasi tipo di atteggiamento fa il Milan, questo ti crea una superiorità numerica che ti crea grandi problemi per la fase difensiva. Certo. Però io devo dire che il Milan non neanche è stato sfortunato, perché se faceva il gol sull'1-1, tutto quello che si vuole, però anche sul 3-0, ecco, non sono riuscito a capire quella punizione che hanno fatto alla fine di Robinho, eh? Però onestamente alla fine la qualità ha prevalso, via. Però Walter, dimmi una cosa, da allenatore, a me è sembrato che il Barcellona con grande facilità riuscisse ad arrivare là dove fa più male, cioè alle spalle della linea dei centrocampisti e davanti alla difesa. Lì è stato bravo il loro allenatore, che ha messo Villa, che l'ha allungata queste due linee, perché il Milan era partito con le linee molto strette. Secondo me è mancato Balotelli, perché al di là di questo, le due linee strette, e allungandola un attimino, e Messi si muoveva bene dentro le linee, e poi Savi, Iniesta, ecco, questi sono i giocatori determinanti. Secondo me, ecco, al di là del discorso tattico, poi prevale sempre la qualità degli uomini, che onestamente, certo. Però non mi sento di inferire al Milan, perché il Milan ha dei giovani e ha fatto di grandi qualità, però ecco, siamo rimasti un po' tutti così, perché si pensava che sul 2-0 si poteva portare a casa. Il Milan, secondo me, ecco, doveva giocarsela anziché aspettarli. È ovvio che il Milan non ha quei giocatori di grande qualità, perché nella fase difensiva loro qualcosa, loro non erano un granché. Si è visto su quella palla di Niang, assolutamente non erano un granché. Come è riuscito ad andare dentro il Milan? Walter, ti chiedo un istante di pazienza per il traffico, poi chiudiamo la nostra chiacchierata. Allora, strade, poi di nuovo qui con Walter Novellino. Campo aperto, può andare Niang, che è velocissimo. Niang in area di rigore, Niang, palo! Tutti convocati. Tutti convocati, 800240024, gufi e non gufi, quelli tristi e quelli contenti, perché nel calcio è giusto anche così. Walter Novellino, adesso col senno di poi c'è chi scrive come si fa a rinunciare a De Sciglio, io aggiungerei magari l'energia di montare in quel centrocampo, però sono tutti discorsi che facciamo dopo, no? A cui siete abituati voi allenatori. Sì, ma al di là, io penso che nessuno ha gufato contro il Milan ieri, perché ieri c'era l'Italia. Onestamente mi ha rotto le palle, scusami la parolaccia, questo possesso di palla che ci vogliono insegnare, noi ci abbiamo cerchiamo di verticalizzare i giochi, è una meraviglia. Poi ma sai che ha rotto un po' le palle anche a me? Ecco, giusto, dai, io ti favo, io sono interista, però anche se ho giocato nel Milan, ti favo il Milan ieri sera, perché siamo italiani. Ma sì, insomma. Ma... E non so chi può gufare. No, ma ci sono i gufi, Walter, ci sono. Ma no, non lo so, io non so così. C'è chi ti vuole all'Inter intanto, mentre chi ti ricorda a Genova intanto, Walter. Ah, grazie. Io aspetto come sono tutti che aspettano una chiamata, chiamano anche Zenga, allora mi ci metto anch'io, dai. Certo. No, ma anche perché la tua Sam può fare la festa all'Inter e magari a stramaccioni, che oggi ha parlato con Kivu, guarda caso, che ieri aveva detto l'Inter non ha gioco, oggi ha detto no, però sono stato frainteso, poi lo facciamo sentire, vediamo se si può fraintendere quello che ha detto o no. Stramaccioni, No, l'ho letto anch'io, è una cosa brutta, no? Chi deve fare il giocatore, insomma, deve fare il calciatore. Mm-hmm. forse meglio, eh? Sì, in questo momento è più giusto che loro pensano a fare i calciatori. E oggi Strama ha detto: ma non credo che mi caccino, che mi esonerino se dovessi perdere con la Sampdoria. Però poi magari mi cacciano il giorno dopo. Io non ci metterei la mano sul fuoco, insomma. Guarda, comunque devo dire una cosa, che il presidente Moratti è grande, perché ha una grande pazienza, quello sicuro. Walter, ti ringrazio, ti abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio sempre a tutti gli ascoltatori. Grazie a Walter Novellino, 800240024. Adesso tocca a voi, i gufi ci sono, e come ti fare Milan, non sai quanto ho goduto ieri sera, scrive uno dei tanti ascoltatori, però io voglio la vostra voce. 800240024, e voglio anche che mi così proviate a dirmi dov'è finito il Milan ieri sera, perché io non sono convinto. Io sono convinto che il Milan potesse fare di più in fase difensiva ieri sera. Poi tanto ci si è scatenati sui titoli. Oggi con i giornali sono tutti su Estromessi, Corriere della Sera, Sottomessi, lo stesso titolo per Gazzetta e Stampa, L'imbarcata per Repubblica, Milan troppo messi per il Corriere dello Sport, poi Franco Piantaneda che su Twitter da demonio qual è ha chiesto titoli anche a voi, c'è chi ha scritto Messia, Franco, oppure Omar, Messi 4 Milan 0, Roberto altro che Allegri, questo non è male, Cesare tutti in barca alla deriva, bellissimo questo di Emanuele, Niang è un gol, eh? Cosa ne dite? 800240024. Maria da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei, senta, io sono una vecchia signora perché ho 84 anni, quindi il calcio non ho visto tanto. Sì. Non sono in grado di fare analisi tecniche, però io ho l'impressione che il Milan ieri fosse, non ci avesse la testa, che avesse paura di vincere. Perché io devo dire la verità, non è possibile che il Milan visto all'andata fosse quello che abbiamo visto ieri. Guarda, io sono juventina, sì, ma ho sofferto fino all'ultimo, ancora sul 3-0 speravo che un gol entrasse, perché vedere una squadra italiana maltrattata così mi ha dato veramente dolore. Io mi auguro che il Milan riesca quest'anno a rientrare nella Coppa, perché sono squadre italiane, una squadra bella, io sono una tifosa atipica, perché sì, non so tifare contro. Io mi sono rallegrata quando il Torino è tornato in Serie A. E quindi porta a scuola tutti, cara signora Maria, porta a scuola tutti con questo atteggiamento. Ma perché io credo che è così che bisogna viverlo il calcio. Sì, sì, no, ma è così, però io non riesco nemmeno. Ma lei cosa mi dice di questo Milan di ieri? Cosa non l'ho visto, Maria, non l'ho visto. Lei ha ragione, anch'io avevo la sensazione che potesse fare qualcosa in più, almeno sul piano della corsa, potesse così combattere un po' di più. Poi perdi a Barcellona e magari vai anche fuori, questo ci sta, perché sono una squadra mostruosa, perché Messi è di un altro pianeta, ma sto dicendo delle banalità assortite. La verità è che mi aspettavo un Milan più da corsa e da battaglia, cosa che non ho visto. Giuseppe, provincia di Messina, buongiorno. Giuseppe? Niente. Alberto, provincia di Firenze? Sì, buonasera dottor Gento, prima di tutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Milan se la gioca con la Fiorentina, caro Alberto. Io sono dell'idea che a maggior ragione adesso un secondo posto del Milan sia plausibile, poi vediamo come reagiscono a questa serata. Dica. No, ho chiamato prima di tutto per riguardo alla partita di ieri sera, che non è da considerarsi una sconfitta, ma un risultato. Perché? Positivo soprattutto. Perché avendo cambiato in Milan tutta la squadra l'anno scorso, dove sono arrivati questi ragazzi agli ottavi di finale di Coppa dei Campioni, è un risultato. Mm. Sì, è poi, un risultato, sì, però il 2-0 dell'andata autorizzava addirittura a pensare in grande, anche se è vero, ha cambiato la squadra al Milan. È anche vero che questa squadra non è all'altezza dal punto di vista dell'organico né del Barcellona né probabilmente dell'elite europea, no? Però avendo questi ragazzi davanti, credo, insomma, in futuro ci si troverà delle belle soddisfazioni. Poi un conto è incontrare il Celtic come la Juventus, un conto è trovare il Barcellona, che è sempre, diciamo, la massima espressione del calcio mondiale. Eh beh, sì, è chiaro che sono due conti separati, caro Alberto, però adesso ovviamente ci mettiamo a fare il tifo per la Juventus. E secondo me la vista giusta Buffon, adesso ci sono i sorteggi che ovviamente disegneranno il tabellone dei quarti fino alla finale, e secondo me la vista giusta Buffon subito dopo la gara con il Celtic, quando gli hanno chiesto chi vorresti evitare, lui non ha detto il Barcellona, vabbè, che era ancora in gioco, non ha detto il Bayern Monaco, ha detto subito il Real Madrid, e io sono d'accordo con Buffon. Giorgio Prato, 800240024 per la vostra voce. Buonasera Carlo, mi scusi ma io da tifoso viola proprio il tifo per la Juventus non mi riesce proprio di farlo. Le riesce, io le ripeto, io rispetto, se entro certi limiti, il gufismo io lo rispetto. Certo, guarda, mentre io ieri sera invece sarei stato contento proprio perché alla Fiorentina avrebbe fatto comodo di avere il Milan ancora impegnato, no, in Champions League. Sì, quindi ma... discorso meramente utilitaristico. Sì, bravo, però non mi sono stupito perché il Barcellona, da che si segue il calcio, cambia veramente pelle dalle partite esterne a quelle interne la maggior parte delle volte. Sì, quest'anno Barcellona... meno, quest'anno meno. Sì, ma di solito insomma il Barcellona di Barcellona nelle partite che contano ci ha abituato a essere questo, e in effetti fra il vero Barcellona e il vero Milan non c'è partita, anche perché io dico il Milan non è la seconda o la terza squadra italiana se guardiamo come qualità, a mio parere come qualità sia la Fiorentina, la stessa Roma che pure ha pagato il discorso Zema sono superiori, il Milan bisogna essere onesti, bisogna dire che e in questo momento lì in classifica anche perché ha beneficiato di molti errori arbitrali, questo sì, è innegabile, credo. La Fiorentina ne ha fatte le spese, però sono stati bravissimi, lo dicevo ieri o l'altro ieri, a metabolizzare questi errori senza lamentarsi, ad abbassare la testa, a lavorare e a tornare a galla. Non credo che il Milan sia lì per gli arbitri, il Milan è comunque in un eccellente periodo di condizione, e poi l'arrivo di Balotelli, che ovviamente ieri non poteva giocare, ha cambiato molte cose anche dal punto di vista emotivo per il Milan. Ieri sera, insomma, è inutile star lì a dire se quella palla fosse finita sul piede di Balotelli, perché sono tutte sciocchezze, però io credo che in campionato il Milan possa essere competitivo per il secondo posto, e rimango convinto di questo, anche se sono curioso di vedere come metabolizzerà questi quattro schiaffoni dopo la grande illusione. Allora, a proposito di schiaffoni e di illusione e di Niang, sentiamo cosa ha detto dopo quel palo, maledetto palo. Passa una volta, ma 5 minuti dopo Barcellona ha fatto gol e mi ha detto che non è la chance, ma speriamo che nel secondo tempo facciamo gol. Ma come abbiamo visto Barcellona è una grande squadra, e quando loro hanno fatto il terzo gol è dopo più difficile. Questa era Niang che commentava quella sua giocata un po' con le gambe molli, mi è sembrato, ma insomma è spiegabile vista l'età, vista l'inesperienza eccetera. Ne ha parlato anche Allegri di quel palo. È normale che la qualificazione si giocava sul filo di lana, e questione di centimetri, abbiamo preso il palo con Niang, siamo andati dall'altra parte e abbiamo preso il secondo gol. Allegri stesso non vuole sentire parlare, almeno lui, di disastro. Ve l'ha dipinta come un mezzo disastro, ma credo che quando trovi questo Barcellona, soprattutto in casa, che fa una mezz'ora del genere, deve avere grande lucidità, grande tecnica per venirne fuori, e loro stasera ci hanno dato grande pressione, credo che l'azione del primo gol sia stata una cosa veramente fantastica. Vabbè, queste le parole di Allegri, io mi tengo la mia impressione, cioè gigantesco il Barcellona che si è specchiato nel Milan, che mi ha dato un'impressione, avete presente di quegli specchi delle giostre, no? Quelli che insomma tu ti guardi e ti vedi più grande di quello che sei, ebbene il Milan di ieri sera a mio parere ha esaltato il Barcellona rendendolo quasi immenso, quando forse non, Barcellona non aveva nemmeno bisogno di apparire così, così grande. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto qui dopo la borsa. Como la enganchó el extraterrestre. Era la noche del marciano y el extraterrestre no perdona. Marca Messi, se vuelve loco el Camp Nou. Edu Polo. Tutti convocati. Siamo al momento della, che tutti attendete, lo so, della lettura della Gazzetta dello Sport. La prima pagina della Gazzetta dello Sport, io l'ho già fatto un po' al nostro Bar in Onda, ma oggi la Gazzetta dello Sport ha questo titolo che fa questo suono, che inviterei a fare a tutti. La Gazzetta dello Sport, ecco, oggi è questa qui, il giornale radio. Ah, questo era Alessandro Mina stamattina, eh? Alessandro Milan, la cui fede non è nascosta nemmeno nel cognome, quindi avete sentito che fine ha fatto la Gazzetta dello Sport di oggi, che ripeto titolava Sottomessi, grosso titolo a pagina 2-3, andatela a controllare, magari non strappatela, C'è chi mi scrive, pure oggi devi sfottere l'Inter nonostante avete preso quattro schiaffi, la vergogna proprio non la conosci. Ettore da Matera. Allora, preso quattro schiaffi noi italiani, il Milan certamente, io no, ho guardato la partita in televisione, non mi sono alzato con le guance arrossate, però devo sfottere l'Inter, insomma. Poi vi faccio sentire Chivu cosa ha detto ieri e cosa ha detto oggi, non è che è cronaca, lo dice lui, non lo dico io. Intanto io ho un ospite che mi premeva sentire, che ieri ha cercato di intervenire per darci un pronostico. Oggi invece sentiamo la lettura da partita di Suor Giovanna da Padova. Buongiorno Suor Giovanna. Buongiorno, grazie per avermi chiamata. Ma ci mancherebbe, grazie a lei, è convocata quando vuole. Quando che segnassero un gol. Lo speravamo. Qual era il suo pronostico ieri che voleva fare? 1-2 per loro. 1-2 per loro, sarebbe sì. Stato bello. E mi spiace come è andata, perché non hanno corso secondo me e la difesa poteva fare qualcosa in più. Bravissima. Anche però penso anche che sono squadra sì, ma che hanno bisogno di crescere ancora, perché è stata tanto rinnovata la squadra. Sì, questo è vero, però potevano correre di più. Qualcosa di più si poteva fare, insomma. Sì, sì, io seguo il Milan da quando avevo 5 anni. Sì. E sono milanista, prima la fede cattolica, poi quella milanista. però mi è spiaciuto che non abbiano corso. Sembravano bloccati. Sì, se fosse una psicologicamente, se fossero, guardi, un po' Giovanna, li ho visti molto tesi, i ragazzi fin dall'ingresso in campo, troppi giocatori che si passavano la lingua sulle labbra, segno che di secchezza di fauci, di grande tensione quella. Li ho visti molto tesi e poi quello stadio è la bocca di un leone, quindi se e non sei abituato a giocare queste partite. Che i giovani hanno bisogno di crescere e questo incide molto nel rendimento, certo. Questo sì. Essere assoggettati psicologicamente, secondo me sì, lo erano, sì. Almeno alcuni. Sì, sì, certo, no, ma ha ragione, visto che è così preparata, insomma, la fumata bianca quando la vediamo? Forse domani. Guardi che io l'ascolto tutti i giorni, dalle 2 alle 3 sono chiusa in ufficio della scuola e sì. Ascolto lei. Ma grazie, la ringrazio moltissimo Suor Giovanna, allora ci torni a trovare perché è convocata sempre, anche perché la sua analisi dal mio punto di vista è stata assolutamente condivisibile, grazie davvero. Grazie a lei. E dico una preghiera per noi che ne abbiamo un sacco di bisogno. 800 24 00 24 il numero verde, e chi c'è in linea se non Filippo Maria Ricci dalla Spagna. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Ce l'hai fatta a raggiungere Malaga? Sì, appena atterrata a Malaga per vedere il passaggio dei boccherones. No, vediamo se la Spagna Porto mi sembra superiore, però vediamo. Senti, cosa ti ha lasciato la notte di ieri? Ti ha lasciato l'impressione che il Barça sia totalmente rinato e questa sia la vera faccia del Barcellona di qui alla fine? O che cosa ti ha lasciato? No, mi ha lasciato un'enorme differenza tra il Real Madrid e il Milan, per esempio. Perché insomma abbiamo visto che il Barcellona sicuramente ha giocato bene, è stata una grandissima partita, è tornato sui suoi livelli, però il Milan era comunque troppo inferiore per rosa, per uomini in campo. E insomma non sono convinto che questo Barcellona per esempio possa ancora tenere testa a Real Madrid in questo momento. Real Madrid che solo due settimane fa ho visto vincere al Camp Nou 3-1 la partita di Coppa. Ieri Milan ha perso 4-0, la differenza è lì insomma. Mi ha lasciato che alla fine contano i dettagli, come molti avevano detto alla vigilia, insomma, quel palo di Niang all'andata gli era andata bene, diciamo, su tutto al Milan. E ieri quel palo di Niang poteva cambiare le cose e non è entrato, è tutto lì insomma. Probabilmente il Milan rischiava di uscire lo stesso, però sì, mi sarebbe piaciuto, mi avrebbe fatto piacere vedere un'altra partita. Poteva fare di più secondo te il Milan, Filippo? Questo Milan poteva fare qualcosa in più? Sì, poteva difendere meglio. Bravo, perché è chiaro che nel momento in cui tu lasci una difesa come quella del Milan in balia degli attaccanti del Barça, te la rischi, e questo il risultato è stato questo. E un'ultima cosa che mi sembra, cioè il Barcellona ci ha messo un po' a capirlo, però giocare con un centravanti è utile. Ieri per me la differenza tra andata e ritorno che David Villa dava fastidio. Allora Messi è più utile quando parte un pochino più indietro. A Milano era schiacciato, non sapeva cosa fare. A me è piaciuta la reazione del Barça, l'idea di giocare con una difesa a tre, con Dani Alves così alto, insomma ci hanno messo un po' a reagire, probabilmente anche perché Tito c'ha le sue cose a cui pensare, voglio dire, è un malato di cancro, sta facendo radio e chemioterapia, è chiaro che forse sono anche altre priorità, però adesso sta meglio, sta per tornare e ieri si è visto. Pare che torni per i quarti, no? Sì, dovrebbe arrivare il 25, che è lunedì, il 25 marzo. Ieri c'è stata una reazione importante anche a livello tattico, sì. Per quello che ho visto. Sì. Però mi dispiace per il Milan, era una grande occasione, perché comunque sì, è un grandissimo Barça, un grandissimo Messi, però insomma c'era un buon vantaggio e con poco le cose potevano cambiare. Vero. Grazie Phil, buon lavoro. A voi, ciao. Alla ciao prossima. Ciao. Questa ve la riproponiamo perché è giusto così, l'avevamo fatta sentire ieri, è la canzone scelta da Puyol che ha accompagnato in campo il Barcellona ieri sera, evidentemente ha portato fortuna, questo tornaremma non mi sembra una cosa da brividi, però piace a Puyol, ha portato bene, meglio così per loro. Moreno, provincia di Macerata, buongiorno. Buongiorno Carlo. Dica. Sono quel signore dello pseudo allenatore, non so se si ricorda, di qualche settimana fa. Mi aiuti. Pseudo allenatore, Stramaccioni. Ah, sì. Ha sentito Old Kivu? Io un attimo volevo dire un paio di cose. Una sul Milan, perché anche se da interista vorrei anche difendere un pochettino sti colori italiani, cioè sti spagnoli mi hanno un po' rotto, onestamente. Anche a lei come novellino, insomma. Beh, c'è la legge dura del gol mancato e gol subito. È chiaro, l'avete già detto, se quella palla va dentro, se il Milan si chiude su due linee, non so con il passare del tempo se sarebbe stata una passeggiata per questo Barça, perché poi come ha detto giustamente quel signore di prima, io credo anche che Messi se non ha degli spazi rimane un po' fine a se stesso nel gioco, perché attaccano in maniera orizzontale e sì, quando verticalizzano che sono pericolosi. Certo, ma tu li devi costringere a girarti intorno, ad attaccare. È un po' come ha fatto Mu. Ma sì, ma insomma la storia la conosciamo, la lezione è quella. Il problema è che il Milan non è riuscito a metterlo in pratica, perché bisogna giocare una partita tatticamente, una partita difensiva tatticamente perfetta, con grande concentrazione, con grande gamba, corsa e grande sincronia nei movimenti. Ieri il Barcellona, meraviglioso, con i suoi fenomeni, e chi lo discute questo? Chi lo discute? Chi si sogna di discuterlo? Però arrivava con grandissima facilità dalla porta centrale a innescare Messi appunto tra le due linee, come dicono gli allenatori, e quindi lo metteva davanti alla difesa, e poi da lì chi li prende più, insomma. Ma mi dica dell'Inter. Dell'Inter posso soltanto dire che siamo arrivati alla frutta, siamo tornati alle interviste dei calciatori che adesso si inventano cosa ci sarebbe da fare, sì. Ma quando vengono intervistati, non quando sono in campo, capito? Cioè, prima, quando c'era Mourinho, stavano tutti zitti, parlava lui e si assumeva le sue responsabilità. Adesso sono tornati a parlare i calciatori dell'Inter. Ah. Io penso che questa, Carlo, sia veramente una società allo sbando totale, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista proprio dell'organizzazione, ma proprio non hanno il senso della misura. Io non capisco come, perché io ho dei figli a Milano, no? E venivo spesso a Milano a vedere le partite. Parlo in passato, perché adesso ho 50 anni, vivo nelle Marche, e quindi non vengo facilmente su a vedere le partite. Ma una volta la curva dell'Inter si faceva quantomeno sentire, cioè. Io voglio dire, se uno protesta sempre in maniera adeguata, per carità, ma che si facciano sentire, perché i primi striscioni li ho visti domenica, si fanno anche sentire. Il problema è la prima parte del discorso che lei faceva. Lì sono tornati a parlare un po' tutti, e questo non è un gran segnale. Ad esempio, grazie Moreno, Chivu così ieri. Giusto che in un momento così difficile sono tutti arrabbiati, perché i risultati non arrivano, ma quello che preoccupa penso ancora di più è il gioco che non c'è per ora. E dal primo all'ultimo dobbiamo dare di più, giocare con più coraggio, perché penso che ci manca anche questo. Quindi il gioco che non c'è, diceva Chivu ieri, non è un'intervista scritta, è la sua voce, non è nemmeno un doppiatore. Ma Chivu oggi si è presentato nella conferenza stampa che precede la partita con il Tottenham, guardate un po', accanto a Stramaccioni. Poi, dopo il traffico, vi facciamo sentire cosa ha detto. 800 24 00 24, numero verde. C'è solo da inchinarsi davanti alla prudenza di questo giocatore straordinario che prima o poi era inevitabile, doveva trovare un gol stazione contro gli italiani. Tutti convocati. Io zappavo la terra. Ulisse scrive che Chivu ha detto delle cose banali e sono gli ultimi mesi all'Inter. Beh, non mi pare banale che comunque un giocatore dica questa squadra non ha gioco e lo dica pubblicamente. Oggi però Chivu ha ritrattato così. È stata una frase mia presa dal contesto. Sono qua perché mi sento in debito e mi prendo la responsabilità di quello che ho detto. Ma a me non va bene quando le cose sono prese dal contesto e fatte come fosse la squadra contro l'allenatore o io in particolare, visto che si trattava di me. Ho fatto un'intervista onesta, sincera, penso che quello che sento e che sentivo ieri e sento anche oggi, l'avevo detto, ho detto che c'è bisogno di lavorare, quindi non vedo cose che devo chiarire solo con un giornale. Probabilmente ha capito male, malinteso, e ha riportato una cosa non vera. Sono lo sceicco Giordano, da dove cresce il petrolio. Sono lo sceicco Giordano, non vengo a Roma in cammello. Ma perché mi fanno tutte queste feste? Sei il figlio dello sceicco. No, si sono accorti che io sono napoletano. Sceicco napoletano. Amico mio, i meridionali all'estero si sono sempre piazzati. Dammi la Roma. Poi non ditemi che non abbiamo seguito per bene questa vicenda, che per fortuna, anche perché siamo un po' esausti, no, da questo palleggio dello sceicco Giordano. Ebbene, oggi una bella mezza pagina su Repubblica dove lo sceicco, che è ricomparso, sapete, ieri vi ho detto non si trova più, ebbene è stato ritrovato con il suo cappotto cammello e ha detto: quante bugie sul mio nome, ma vedrete, prenderò la Roma. Aggiunge: non capisco perché sono stato così attaccato, a chi dà fastidio quello che sto facendo. Poi aggiunge tra le altre cose: colpa chissà anche delle foto sulla casa di Perugia, dicono che sia due camere cucina, sbuffa lo sceicco, ma è una casa su due piani, come si fa a scriverlo? E poi non abito più lì da un po', ho letto che mio fratello vende collanine, in realtà ha una parte importante nel bazar più grande di Nablus e la mia casa in Cisgiordania è una reggia di quattro piani costruiti in pietra. Perché non andate a scattare le foto a quella? Dice stizzito lo sceicco che domani dovrebbe sborsare 50 milioni di euro. Secondo voi? Gnafà? Secondo me gnafà. Nicola, provincia di Mantova, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie per avermi convocato. Sempre. Dunque, io volevo fare un'analisi un pochino più, più profonda del Milan di ieri sera. Il Milan di ieri sera è entrato in campo, a mio avviso, già sconfitto. Sì. Io cerco di guardare, quando guardo le partite, cerco anche di guardare le facce che fanno i giocatori. L'ho detto prima anch'io, del Milan ieri sera, soprattutto in elementi che non dovrebbero essere spaventati. Vedi Ambrosini. Vedi Boateng. L'ho detto anch'io. Avevano delle facce. Cioè Ambrosini, quando ha perso la palla per il secondo gol, ha fatto una faccia, e prima per un attimo gli è passato di chiamare un fallo che non ha fatto Iniesta, assolutamente. Sì. Poi questa faccia di sconforto, poi non ha saputo fare 10 metri per cercare di recuperare, perché Ambrosini, diciamocela tutta, Ambrosini grandissimo giocatore del Milan, grandissimo, nel senso attaccato molto alla maglietta del Milan, mai stato un grande giocatore a livello di piedi, ha corso tanto per il Milan, però è cotto Ambrosini, è cotto. Ma quest'ultimo periodo era uno dei più in forma, mi pare. Sì, va bene, ma ci sono quelle fiammate, però insomma io penso che quello che doveva dare l'ha già dato. Questo non senza togliere niente ad Ambrosini, se lo vogliono convocare, però insomma Milan doveva arrivare a Barcellona molto più cattivo, non so, forse c'è stato quei due giorni post vittoria a San Siro che hanno gasato, ma nel calcio, cioè, quando poi si va a giocare a Barcellona, beh, ma ci sta che, abbiano gasato, il problema è trasformare quell'emozione positiva, quella convinzione in qualcosa di diverso da quello che abbiamo visto ieri. Esatto, sono ieri sera, cioè, un po' arresi prima minuti, di giocare, vuol dire che ti sei già arreso, cioè entra in campo senza, cioè, a parte che se a tutti erano molto molli così, ma ecco, ma secondo me è entrato proprio la cosa, insomma, non siamo adesso, senza niente togliere al calcio, io sono milanista sfegatato, ieri sera avevo il cuore che mi faceva male, però insomma è passato la squadra migliore, senza, beh, su questo, cioè, non c'è dubbio alcuno, ma lei sa benissimo che nel calcio le sorprese possono anche starci, e questa aveva il profumo della sorpresa, viva Dio, poi non si è verificato, però poteva essere la grande sorpresa di questa primavera, perché che il Barcellona sia molto molto più forte del Milan, questo è semplicemente un dato di fatto oggettivo. Bruno da Genova, poi voglio farvi sentire un'altra cosa prima di chiudere. Dica Bruno. Buongiorno. Buongiorno. Di Genova, genovano e filo Barcellona, nel senso che io Barcellona lo seguo da 2 anni, sia su Sky che su streaming, e lo davate come una squadra decaduta fino a stare la partita d'andata, dopo partita d'andata, una squadra secondo il suo tic e toc. Ma decaduta no. Decaduta senza, perché il suo ospite diceva appunto che magari è una squadra che non c'ha meno gioco, che non c'ha il natore, che non c'ha, che ha perso molto smalto. Io l'ho visto giocare spesso, posso garantire che se ha perso col Celtic, per un team forte del Celtic e basta. No, però Bruno, nell'ultimo periodo, però sconfitta Milano, doppia sconfitta con il Real Madrid, era chiaramente, sì, c'entra anche il discorso del... Io ho visto la parte con Real in Coppa del Re, non è che la Barcellona ha subito i gol, ma non ha subito il Real come squadra. Barcellona non subisce mai nessuno sul piano del gioco. Quindi ecco, la levate un pochettino come squadra spenta o sul ticket noioso. Però se trovo un campo giocato giocabile come New Camp o altri campi, non Milano o altri di campetti. Trovo un campo giocabile dove riesce a esprimere la sua forza e sicuramente sempre la migliore squadra del mondo. Sì, ma questo può essere, anche se io all'andata l'alibi del campo l'ho trovato stucchevole, perché punto primo, il campo vale per tutti e due; punto secondo, io resto dell'idea che su un campo più difficile emergano in maniera più evidente le qualità tecniche. Ho questa convinzione un po' controcorrente. Allora, adesso però lasciamo stare questi discorsi, perché c'è Vincenzo Nibali, che è la stagione del ciclismo che sta vivendo, Tirreno Adriatico, che tra poco vivrà la Milano-Sanremo. Ebbene, Vincenzo Nibali ieri ha fatto un numerissimo alla Tirreno Adriatico, ha concesso il bis, sentiamolo. Che dire, sono contento, non ci sono parole. Ho capito che ero lì per giocare la vittoria, però non so il tempo finale. No, è stato sicuramente, ho gestito lo sforzo qua nel finale. Ho dato tutto quello che volevo fare, insomma, ho fatto l'ultimo pezzo, ho sparato le polveri. L'ultima sfida con Froome è stata al Tour, quindi da allora abbiamo fatto dei cambiamenti anche per quanto riguarda la bici da crono, quindi questo è, diciamo, il primo vero test. Ma la dedica è a questo gruppo che veramente ha creduto in me da quando mi ha preso, quindi sono veramente trattato come, non diciamo con i guanti, ma meglio, quindi sono veramente contento di essere in un team così. E la dedica è per mia moglie, perché se sono arrivato a questo punto così di condizione buona è stato anche lei, perché ero un po' sovrappeso prima di inizio stagione. L'ha messo a specchietto la signora Nibali, che conferma tutto. Rachele, la moglie di Vincenzo Nibali. Vincenzo ti ha appena dedicato la vittoria, perché ha detto che era un po' grasso e l'hai fatto dimagrire. Sì, esatto, ho messo a dieta da un paio di mesi. Solitamente le mogli fanno un po' ingrassare. No, faccio il contrario, io lo metto a stecchetto. Qual è il suo piatto preferito a dieta? Pasta al pomodoro. Tutti pasta al pomodoro a casa di Nibali, cucina la signora Rachele. Grazie a tutti per l'attenzione. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti, regia, io convocati. Zappa alla terra. Zappa alla terra, vengo anch'io. Domani alle 2 qui, tutti convocati, ciao. Tutti convocati.